Quest'amore non è da ricordare, non è quello che si dice la vita, non è quello che piange di gioia. Questa lacrima non è di dolore, ma soltanto la certezza di un errore che fatica a rotolare via di...